televisione direttamente. Sì, sì, è vero, l'ho fatto anch'io diverse volte. No, ma solo per vedere la partita, se proprio uno la vuole vedere, ma tu mi stavi dicendo che il PC è piccolino, che è quello che ha, e allora chiaramente viene male a vederla. Ci vuole quel cavo lungo, quel cavo dove ci sono le viti, quello blu, mi sembra che sia un cavo blu, così gliel'hanno dato, che va attaccato alla televisione, va attaccato e al computer del contempo, così è vero, gli ho messo. Infatti quel cavo, non mi ricordo se è blu o nero, non mi ricordo oggi. Gli spinotti che lo fanno, capito? Su una parte è più grande, quella del computer è più piccola lo spinotto, capito? Però non entrava, era diverso, l'hanno dato il cavo sbagliato, capito? Però siccome è venuto verso la una o la una passata, non potevo andare a cambiarglielo, evidentemente sarà andato poc'anzi a cambiarselo, perché loro sono accaniti. Ah, quindi ecco qua, aspetta, te lo dico subito giù. Ok. Adesso la partita inizia. Su canale su Premium, no, oppure su Sky, ma se la vuoi vedere, non hai quelle schede lì, lo puoi vedere sul computer, capito? Scrivi, dai, questo che ti ho detto io, scrivi, devi scrivere atdhe.net e fai invio. Facendo invio appare una pagina, appare, no? Con tutti i link che ci sono, provi sul primo, che può essere sul primo, sul secondo o sul terzo, e schiaccio, o addirittura sul quarto o quinto, comunque prova solitamente sul primo, schiacci sul primo e ti appare una pagina con tutte le partite della giornata. Allora fai scorrere dove c'è scritto Live Sport, c'è scritto questa pagina sopra in alto, c'è scritto Live Sport, tu la fai scorrere e ti trovi la squadra che ti interessa, clicchi sulla squadra, aspetti 30 secondi e vedi la partita, poi già è facile, già te ne rendi conto, capito? Oggi? Sì, Gian Maria. No, dice che ha visto sul computer, ha visto, c'era un'altra partita era che voleva vedere, che era prima, adesso c'era un'altra per cui l'altra già la vede. Ma che succede? Perché loro già sono attrezzati, e loro non tutti se le guardano, tutti, perché sono in mezzo al calcio loro, specialmente alla voce. Ho capito, Giovanni, sì, è così. Oppure c'è un altro sito, l'amico, ho capito, hai il sito che interessa? Avanti, camionista. Non hai capito? Vabbè, se non hai capito, cosa posso fare? Fate l'abbonamento e lo scrivete da vivo. Sì, è così, Giovanni, ma c'è l'altro sito anche, si chiama Vizi Rig, anche quando è il sito lì ci sono tutte le partite del mondo, 24 ore su 24, perché ci sono le partite che anche le 3 del mattino, naturalmente nei paesi dove a quell'ora qui in Italia sono le 3 del mattino, magari là è giorno, capito? Ci sono tutte, ci sono, Giovanni, ma c'è anche il motociclismo, c'è tutto, non solamente il calcio, di tutto c'è, capito? Vabbè, basket, è tutto quello che uno cerca, c'è sempre al computer, basta saperlo usare, e funziona, vabbè, vedi Giovanni. Non c'entra niente con lo fatto delle partite Facebook. No, ma quello lì ho detto con l'altro discorso. Quello lì questa è gratis. Gratis, vedi, tutte le partite del mondo. Sai cosa vuol dire tutte le partite del mondo? Tutte e tutte, basta cliccare su quel nome lì e tu sei a posto. Vabbè, grazie. Avanti Gio Maria. Ok, ciao, ci sentiamo. Avanti Gio Maria. Ok. Già lo sanno, ma siccome era un'altra partita che hanno già dato, infatti l'hanno già vista, però non vi fa compiere, perché il tuo capo non andava bene, capito? E per cui andranno stasera proprio il tuo capo di serra, capito? E siccome hanno il computer piccolo, e allora voglio vedere queste partite in grande, no? Sanno la 42 mi sembra, per cui volevano vedere questa partita, però mi sembra che l'abbiamo già vista, adesso ce n'è una, e dice quella, dice già lo so che già la vediamo, e così via. Ti piace, guarda. Capito? Sì, Giovanni, infatti a vedere la televisione è molto discorso, televisore grande, specialmente come quello che ho io, 42 pollici. Si vede benissimo, poi c'è anche il sistema sport, anche questa è giunta nel mio televisore, quando la voglio vedere ancora meglio metto il sistema sport, è tutta un'altra musica. Sì, va bene comunque, però ormai costa troppo questa partita la televisione. Dopo gare un abbonamento sia per Sky che per i primi, e pensare che quando avevano iniziato costavano appena 5 euro a partita, anche 4 euro prima, e allora invece buttano io un sacco di denaro, costa più il doppio, costa, non è possibile, tanta gente infatti non se l'ha fatto l'abbonamento, purtroppo è così, poi in periodo di crisi, ti puoi immaginare, Gianmarì, tanta gente adesso cerca di risparmiare, tu che passi di calcio, riprendi. Ma chi è appassionato fa qualsiasi cosa, ragazzi, tanto a vederla, capito? E quando uno sportivo è proprio accanito, loro, ripeto, la moglie lavora lì, è segretaria della Torres, capito? E per cui poi sono accaniti per il calcio, capito? Per cui li vedono tutte le partite loro. Però, ripeto, volevano vedere questa partita in grande su questo schermo della televisione. E come è entrato qua per vedere se la compite mia andava bene, invece no, le spine, con la spina sono tutti uguali, sia la spina proprio per vedere quella partita sono tutti uguali, invece no, era un altro tipo di partita di cavo che l'hanno dato, era diverso, non entrava perché uno era grande e uno era piccola, per cui non andava bene. Cosa vuoi? Io ripeto, non le guardo. Guardami qualche partita internazionale così, che la danno, ma grazie, io non mi riparo per avere. Oh, no, non Sky, non c'ho niente. La regione normale e basta. Se l'hanno lì è buono, se no. Cattate fresche, mangiano soli da parte mia, non mi piace perché non sono sportivo al calcio, capito? Ha pugilato sì, però ha pugilato tutta la settimana, due volte a settimana, se tu guardi solo il canale, due canali mi sembra, e sono sempre di queste parti che è pugilato. Sì, su canale 58 e 57. Quasi tutti i venerdì oppure giovedì ci sono sempre, la notte naturalmente, no? La notte c'è sempre, tutte le settimane c'è sempre qualche incontro di pugilato. E vabbè, ognuno ha la passione per il suo sport, chiaramente. Sì, beh certo, se non si è appassionato di calcio, cosa te ne fai dell'abbonamento? Va a spendere soldi inutilmente, non ne vale la pena. Uno lo fa quando è appassionato, non spende i soldi quando è appassionato, se no non è proprio il caso di spendere i soldi per vedere una cosa che a uno non piace, ci mancherebbe. E va bene così, va bene, ancora 20 minuti, 18 per l'esattezza, dai. E siamo al fischio d'inizio, gioca solo la Juve oggi gioca, c'è Juve e all'inizio del campionato, oggi è la prima partita del campionato, vediamo un po' cosa succede, lo sapremo al prossimo giugno prossimo, o meglio maggio, giugno, là, del prossimo anno, quando finisce il campionato. Uia. Va bene, dai, andiamo a vedere, oh, Gian Maria, tanto oggi è caldo comunque, è molto caldo. È caldo, sta facendo caldo, magari fuori sembra che c'era l'arietta, ma ancora è chiuso e ancora non ho aperto la parte della sala, perché il sole ci batte tutta la serata lì e noi abbassiamo le tapparelle, è tutto chiuso, solo la parte di dietro è aperto. Però se non apre poi lì alla parte della sala, davanti, l'aria non passa, capito? Invece quando aperto passa e si sa veramente bene, ma ancora non l'apro perché c'è molto caldo ancora quella parte, capito? E così è giù. Una volta lì sono andato, ma vari anni fa, che c'era mio genero che giocava con una squadra, e siamo andati a Sant'Orso, dice, non venite a guardarci a vederci giocare. Dico io, il mio cognato, io la macchina andiamo a San Giorgio lì. Stava giocando, e lui da parte fuori guardando, lì c'era la rete alta, amico. E se no che dopo lo so cosa era successo, cominciano a far razzo, io farebbe la faccia a pugni, dice, viene a bocca macello, ma lo sai che siamo fuggiti, e non so gioco più, ma è andato più, ma vedeva una partita proprio in malissimo motivo giù, e non mi piace brutto a vedere, ma con ogni pugno mi fa bella faccia, io non la giudico mai, io calore i miei fratelli. Sì, quello diciamo, succede anche nelle squadre di professionisti tante volte, e non è la fine del mondo. Quello lì è l'agonismo troppo forte tante volte, allora uno non sopporta i colpi, ma la battuta di calcio è così, uno prende un colpo, è normalissimo nelle battute di calcio, a meno che uno lo fa apposta, no? Ma apposta uno non lo deve fare a giocare, a prendere a calcio i giocatori. E allora quando uno vede, mi ha dato un po' la pedata, mi hai fatto male, non lo dovevi fare, magari pensa che l'ha fatto apposta, allora lì incominciano le zuffe, capito? Se le zuffano. Lo so. Ecco qui adesso mi. Qui a due punti c'è il campo, no? Lo sai. Poi c'è l'altro lì dalla Viglia verso cosa? Come si chiama? Quella zona. Verso Montalì, andando verso Montalì c'è l'altro campo. Ci sono due campi di calcio qui alla Viglia. Al punti, uno è della Viglia, di proprietà della Viglia, l'altro è del comune e c'è la gestione, uno che abita qui alle punte, che ha la squadra di prima o seconda categoria, e ho visto che lì c'è tanta gente lì, la domenica mattina quindi giocano, sempre di mattina, ma è tanta di quella gente che non ha idea, anche 1500, 1600, 1000, anche 2000 persone, c'è la tribuna, allora arrivata qui alle punte. È un bel campo, c'è anche l'illuminazione, infatti la notte tante volte è accesa con la luce lì e stanno facendo allenamento. Insomma, diciamo che dura tutto un campionato intero. Adesso inizieranno anche loro, senz'altro. Io penso che anche loro da domani inizieranno a giocare, questi dilettanti, diciamo, qui sono tutti i giocatori dilettanti. Poi c'è quello della Viglia, lo sai di chi è? No, la Viglia è fatto per l'Italia Roberto, no? Roberto Quadrato, il padrone dei campi, non ce n'è uno, ce ne sono quattro in quel terreno lì di campi, dunque il proprietario è Roberto, è il mio vecchissimo amico Giovannino, il padre, giocavamo assieme quando eravamo ragazzi, io e il padre di Roberto, giocavamo a calcio assieme nello stesso campionato, diciamo, non assieme alla stessa squadra, nello stesso campionato, capito? Dunque, a Puglia, la domenica mattina adesso diventa interessante per chi è sportivo, per chi è appassionato di calcio, naturalmente per una persona che non è appassionata di calcio, come te ad esempio, non ne frega niente, è giusto anche che sia così, mi prendi, Giovanni? Ok, no, io ripeto, sono andato, ho visto la situazione com'era e ho detto no, ci sono andato più a vedere la partita. C'è mio nipote e l'ha detto qua, gioca con una squadra, lo so che squadra è, e tutte le settimane giocano. E mio figlio stesso, i pompieri, quello ogni tanto fanno, tramite amici, fanno le partite così, per le cene, eccetera, eccetera, no, i campetti. E ci vanno molto spesso loro, quasi ogni settimana, una o due partite fanno alla settimana. Però mio nipote gioca con un'altra squadra, però non so, quello proprio giocatore, capito? Però una certa volta ci hanno detto, se andavamo con loro, ha detto vai, capito, in casa io. No. Prima tutto non mi piace, e poi avere certe cose che succedono. Ma ti pare che uno possa andare a avere una partita, e grazie a Dio invece, perché voi ci riesci con tu buru, ma tutte le madri giù. Lo so, purtroppo succede, qualche volta è successo anche qualche morto in queste situazioni, e vabbè, ma quelli sono scammarati, non sono tifosi di calcio, quelli sono scammarati, sono gli omarini, quando fanno queste cose, fa caldare, hanno da queste tafferugli qua, no, uno non è che si deve mettere in mezzo, tu mi dai, ma può capitare in mezzo. Sì, ma quando vedi che la cosa incomincia ad alterarsi un pochino, uno lo fa, si allontana e via, e se ne va in un altro settore, anziché fare in mezzo alla Bugliana, capito? È meglio fare così. Gli allubino, poi non si sa mai, oggi già lo sai, la gente è anche molto svelta alle armi, ha i coltelli, ha le catene, ha i bastoni da Rimbic, tutte queste cose, oggi la gente va armata allo stadio, fa la squadra che uno è interessato, se tu non ne fai meglio, anche almeno non hai nessun conto, perché nessuno sa chi tifi, capito? Anche quello è vero, e vabbè, e da onde cosa ci vuoi fare? Oggi la vita tutti i giorni, non è solo, hai visto di strada, i passanti vengono ammazzati, anche quando qualche giorno fa a Roma o l'altro, andiamo bene, li prendi. La gente è tutta esaltata oggi, non c'è più gente seria, gente calmano, tutti esaltati sono giù, ma tu ti immagini che una persona tranquillo camminando, passeggiando, vanno là dietro e lo picchiano, ma perché cosa? Magari capace non lo conoscevano meno, come è successo anche a Sassari. Una volta ho partecipato a queste cose così al corso, c'era questo poverino tranquillo camminando, passa questi tre, e uno è uscito e dice, me lo rega, il curimu, e mi ha recuperato, va a bene, pagata, a voi sono fuggiti, ma tutti rimangono che punto siamo arrivati oggi, e peggio ancora, oggi il cattetto buru camminendo, e mi chiede a mezz'ora, che avrei pure a darci, e la verità a chi, si dice all'improvviso, ammazza, di boh, vai a caduto, a che punto siamo arrivati giù, ma gli altri sono già ciappa oggi. Oh, per carità, ma succede molto spesso questo, ma anche Sassari soprattutto si sta facendo sentire per certe cose, per carità, non è possibile. E cosa ci vuol fare io Marino? Bisogna stare molto molto attenti, tenersi sempre lontani da qualsiasi eventuale incidente e da qualsiasi provocazione, anche se uno viene provocato, lascia perdere, anche se sai che gli dà lo schiaffo e lo butti giù, quindi è meglio sempre stare, perché poi se ne vengono da dietro di nascosto, ragazzi, dai, ti pugnalano senza nemmeno accorgersi, e purtroppo la gente ha quella mentalità, quello vuoi che ti dica, siamo in mezzo ai gani, non siamo in mezzo ai cristiani, non è possibile, ragazzi. Siamo arrivati al punto che non possiamo più uscire di casa, perché ci sono certe famiglie che anche in casa si trovano male, perché si sviluppano tra familiari, ma che dai, non è possibile, non lo so da che cosa dipende, Giovanni, a me mi sembra che la gente sta impazzendo, ma comunque, Non è il nostro caso, Giovanni, freghiamoci, a noi per noi già va bene così com'è. Appunto, giusto di burulisso, ma è d'altronde cosa ci vogliamo fare? Se che tu non ti lasci manco il tempo di parlare al maestro così, alla macunata, come se tanti volte invasini, o per farsi venire bulli, è dato da veneranno, e questo è un problema che questo, ecco qual è il discorso. Sento che da voi, persone che vengono e si affrontano faccia a faccia, ve ne sono pochi, voi ve ne siete assai, che ti viene a dire, mia cosa tu mi siete fatti, con già a te ti devo badire qui, o ti devo ammazzare. E che tu, quando passai tanto tempo di una cosa del genere, mi si acciappa, ho il culto, ho già molto, qual è il problema che so. Ma purtroppo dipende dalla confidata, ecco, qual è il discorso, non penso. Io sono potuto rubare, se ti mi faccio una cosa del genere, mi devi ammazzare, se mi ne metto la terra, in giro, arrivo a casa, mi devo coso, in giro. Ma tutti vanno in paesaggio così, tutti gli altri paesaggio così. Ma il problema è che bisogna avere, e se io sono, ti dà la fa, non mi puoi battere, e io sono il problema. Se tu sei abbastanza tranquillo, vai in una carriera qualsiasi, arrivi io con un bicco, come si è fatto a Milano, e c'è quello un colpo di bicco a capo, o al Bassante, così sta avendo mai visto, mai condiscito, come ti vai? Non lo vedete, non devo andare a casa a pigliare un cugino e tirarlo, non credete di chi si dentro. Come il cugino è partito, non vado più neanche a vedere il partito, il cavolo che sono andato a vedere la storia, c'è la storia di Ambellino, se faccio due transei, ma da lì non si può più andare domani a vedere la partita, anche noi andati della partita. Chi ci hanno ammazzati? Cosa che secca così? Purtroppo così, tanta gente, infatti noi andiamo in buono stadio a vedere i battiti, ma non solamente a vedere i battiti di calcio, ma pure di altre discipline sportive, tanta gente per l'incidente, dopo una volta, perché tiene gli incidenti, purtroppo è così. Io penso che voglia un po' carico di gare, ma la base di tutti, ma che non è possibile voglio continuare in questa maniera. Mi sembra che bene che questa guerra è una guerra civile, se abbiamo guerra tra di noi battesi, boh, lo comprendo il motivo, ma comunque, avanti Gio Maria, ancora uno o due passaggi e poi devo chiudere e vado a accendere la televisione, avanti Gio Maria. Comunque saluto l'amico, la buonasera. No, ma ti sembra che uno va allo stadio per vedere una partita tranquilla, pacifico, vedi che invece, magari vedi che fai che l'abito non dà di la punizione o qualche cosa che succede che no, pari non si aiuta e si gira e quello è un compagno capizzino, ma se te ne immagini, ma io vado a vedere la partita, ogni madre attacchia, no, è una delle cose che a me non mi sono mai piaciuto, no, ma dice non abbia fatto entrare di un campo, ma no, l'abbia isolato direttamente, capito? Perché stanno succedendo nel calcio delle cose, non è possibile che arriva a quel punto, non è possibile. Però niente, tutte le lasciate oggi nessuno comprende niente, capito giù? Fa carizzare che Roia, non sei manco da qui lo cammina e fa una passeggiata con il dubbio, fuori di bombardiare o in un campo. No. Ma lasciamo a pettiggio. Ma la cosa è paranucra che in Italia abbiamo entrato in campo. La colpa del governo è che hanno i taglietti di biglia, che è tanto semplice acciappare i delinquenti allo stadio, è tanto semplice, un bel facile, con tutti i canti di telecamere che vi so. E invece cosa fate? Le pigliani, la retani, se li buttano in quest'una, da voi, in tal mese se li devono mandare, e la prossima domenica soltanto da capo. E invece, se tu sei andato a battere queste cose, tu non vuoi andare mai più a vedere partite di calcio e nessuno evento sportivo. Ma che tu una domenica, tu allora la partita delle mini in quest'una firma, così deve andare. Invece niente, se la fuci la giustizia ma questa se la fuci, cosa non è possibile, capito? con tutto mi risolvo con tante di che tu controlli, tante poliziotti, le stuvali, non sono tanti. Ma sono i presidenti ma te se devi sostenere i finanziari che ti greffi di coso, come si chiamano, di diffusi, papà macello, papà brutto, papà piazzino, non è possibile. Le prime la verità, tanti volte sono proprio i presidenti di società, chi sono i che finanziari, i Sì, ci sentiamo, ci mancano 3 minuti alla partita, dunque ti devo lasciare, mi dispiace, ma ti devo lasciare, Giovanni, dai, e allora sono appassionato e devo andare a guardare. Ci sentiamo alle prossime, Giovanni, grazie per le 4 chiacchiere e anche all'amico, salutoni, alle prossime, riprendi Giovanni, va. Saluto anche a te. Comunque, uno entra in aula, ma che si è comportato bene in galina? Sì, ma prima di entrare in galina si è comportato male, dunque devi raccontare bene cosa che cattuglia. Bravo, dai, chiudo, ci sentiamo, ciao, ciao Gio Maria, alle prossime, riprendi. Giù, buona partita allora. Per carità, ci sentiamo alle prossime, ciao. Così è purtroppo, a che punto siamo arrivati, non rivediamo nei campi cosa fate, gente esaltata, no? Fine gente seria, non ce n'è più, sono tutti esaltati, fra carità, faccia proprio te, io vi ero fatto buchi al campo, non mi interessa un calcio a me. Che partita me la guardo la televisione, almeno sono tranquillo che io non prendo botte lì. Oh, non mi è successo mai perché io non ci vado allo stadio, Ma una volta solo sono andato, per cui ho visto le cose che erano, cose successe, allora quel giorno sono andato più ai campi a vedere partite io. Vabbè, qualche partita me la vedo la televisione, e buh, e basta, tutto lì. Allora, di chi sei l'amico, non ti ho riconosciuto? Sono la camionista, ho capito. Ok, allora, buon rientro, allora, ci sentiamo. Ciao, ciao, ci sentiamo allora. Tanto di strada, non capivo più niente. Ok, si sei arrivato a casa, allora, buon proseguimento, vi salute, ci sentiamo. Alle prossime, ciao. No, sono al baracchino di casa adesso. Ah, baracchino di casa, sì. Ecco, ho capito. Ma sono dentro Sassari oppure in periferia, sì? Ma sono dentro Sassari adesso. Ah, ecco. Che arrivi bene, arrivi 9:20, sei qua. E la radio è buonissima. Ok, capito me la faccenda. Quindi la gente, è tutta esaltata, cosa vuoi fare? Allora mi lascia attento a dove vai e con chi vai pure, perché c'è volte anche gli amici pure, dagli amici, dice vai in mezzo anche tu, capito? Da Romano vi viene il buono muro, capito? Io sono zona più del fondo, dove si sento forte e chiaro, quindi... anche tu arrivi bene, là, complimenti. Ok, purtroppo neanche io devo lasciarti, dai, per un cadente, per cui ne approfitto e chiudo anch'io, vai. Buon proseguimento, salute e famiglia, ci sentiamo, alla prossima. Ciao, Gio Maria, chiude. Italia, una boccaria di ventenni. sentito, nuovo, Luca qua. No, no, no, nuovo, vecchio. Oh, Marco? Marco Pani. Nome nominativo. Nominativo non ce l'hai. Come? Ho detto, un nominativo non ce l'hai. No, sono camionista, sono. Ah. Che nominativo devo avere? Lui non è più tempo neanche di avere baracchino qui. Vabbè, diciamo che ognuno di noi sono nominativo, vabbè io ne ho 50.000 nominativi, ma comunque sento come sempre con il mio nome. Ma no, ma sì, barra pesante. Come? Barra pesante. Come io questo baracchino volevo attaccarlo all'accordatore, perché molte volte non... c'è le indicazioni come funziona. Accordatore. Allora, metro. No, l'ho preso proprio oggi, lo si chiama SQR e Power Meter MC1260. Ma è un rockmetro, non è accordatore. E poche parole, se metto la casa o anche sul camion? Vabbè, per misurare le stazionarie dell'antenna, se l'antenna non ne ha, va bene, ma se ce l'ha la devi tarare. No, oh, l'antenna è già tarata. Allora va bene. Ha collegato adesso, volevo solo sapere come si collegava, tutto qua. No, però, cioè, ogni tanto bisogna controllarlo, per vedere come va. Capito? Ma cioè, ce l'hai anche a casa il baracchino? No, a casa niente, solo sul camion, basta, io sono pure a casa. Vabbè, ma niente, ti cazzo in peggio. Io lo uso solo quando viaggio e basta, adesso mi come rientro nel parcheggio, vengo tutto. Positivo, dai. Allora, il discorso è, c'è gente che non c'ha lavoro, meno male tu lavori, dovresti essere contento. Hai capito? Sono di quelli che vanno tranquillo sul baracchino, non vado a dire smontate, fare smontate. Che senso? Ma infatti, Ricco, dovresti essere contento che sta lavorando. No, per quello sì. Allora, ho fatto di dipende dalla salute. Anche io sono del Montimi, ma... Cosa sei in Canada? Ah, in Canada sì. Bravo. E lì c'è stava Nicola Derio, lo conosci? Auguri, se lo conosco Nicola. Se le rifaccio un pezzo quella che è terra, quando è una gana. Bravo Nicola, Bravo veramente. E ho fatto anche le scuole assieme. Ah, sei quanto Nicola allora? Pensavo fossi più grande di me. No, sei più piccolo di Nicola. Io sono del 1974. Ma che tu dove abitato? Dove abiti? La Meridiana. Non so, magari non so se ci conosciamo. Sicuramente ci conosciamo. Corriere? No. No, porto autocisterne, porto articolato. Ah, ho visto. Lì vi conosco, la Meridiana li conosco, qualcuno lo conosco così, ma niente di che. Giuseppe Robottino, chi conosci? Allora, sto pensando, Io sono nato lì, diciamo. Tuttora? Abiti lì? Da quando hanno dato le case popolari, sempre lì, mai mollato. Non so, sto pensando a Elisa, ti conosco il book. Ma tu quando entri su canale 5, tu sei su canale 5 giusto adesso? Canale 5 sì. Ma ci parli, fino a dove riesci a sentire, fino a dove riesci a prendere? Ah, dipende, è pieno tranquillamente, buon dottore, dipende. E quante ne hai? Avanto qua 5 sul tetto. Ma io sono sul camion, adesso sono dentro stanze e sono all'altezza dei vigili urbani, mi sento bello, forte e chiaro. Ma anche tu a ricordi di bene, qua c'è la bomba lo stesso. Andiamo. È un pochino vecchiotto, ma va bene. Ma che bene, ho detto, ho finito di lavorare adesso. Sono andato a parcheggiare. Quante ore ne hai fatto oggi? 12, 15? Questa mattina alle 5. Tosta, vabbè, tanto non vi nemmi. O così o come? La patente c'hai, di è? Sì, di è. E quella costa, non ti bastano 5.000 euro. Diciamoci la verità, che l'ho presa la D e la E l'ho presa da privatizia, il CQC che mi è costato molto caro. Quanto? Quanto costa il CQC più o meno? 2-3 l'ho pagato. E dura 5 anni? Dura per tutta la vita, lo devi solo rinnovare ogni anno, devi pagare 300 euro per rinnovarlo, se vuoi lavorare, se non ti scade. Vabbè, ma vuol dire rinnovo, lo so che dura tutta la vita, da pagare, bubu. E purtroppo se vuoi lavorare così. Ma ti anni che guidi? Da quando ho fatto 21 anni, ne ho 29. Ah, ma allora c'è l'esperienza, dai. Diciamo di sì, dai. Non è facile guidare un tipo di mezzo pesante. È bello, devi saperti fare ed è abbastanza bello. Vabbè, con la passione anche, non è solo per... sì, lavori per i soldi, quello sì, però c'è anche la passione. E quello è vero, quello è vero. Casino, boh. Allora, Nicola ha suonato la settimana scorsa. Ma no, veramente diventato, bravo, bravo, merita, merita. Va bene, dai, ora ti saluto, dai, che sono arrivato in deposito. Papà, ciao, saluto, alla prossima. Allora, ciao, ciao. Allora, fino a lunedì, allora, su, qua su, da qua su, per cui non so quanto tempo fa il lavoro com'è. Magari noi di un verso sono diversi, non è come quello che avevo io. Allora la butto con la vetro, con la macchina così. Adesso sono in macchina lavorando, per cui faccio più bene, più maneggevo, sono andato in macchina adesso, lavorando, per cui sono tranquillo. E poi ho venduto tutto e mi sono aiutato a lavorare con tu mio, di nuovo. No, io faccio Sardegna continente, continente estero. Io l'ho fatto però fare parecchi anni, l'ho fatto parecchi anni con le traversate così, giravo tutta l'Italia io. Proprio di qua all'altro per le campagne continente, da una parte all'altra. Perché lavoravo, portavo un nome per la Michelangelo 2, capito? E per la Tosco Sarda. E più, portavo sotto i quadri, viva il Livorno, maschio per le cornici, eccetera, eccetera, e portavo qua, dopo distribuivo in Sardegna, capito? Diciamo che è un lavoro di merda, diciamo. Allora, un lavoro brutto, e poi adesso fa stato bene, perché la macchina è come si vede, vai. Per cui a fare percorsi è facile, non come quelli che lavoro io, per carità, cazzo lento, ma che va schifo, ma tanto in città non lo so se l'hai conosciuto. Io ho uno strano. Un tracito? Uno strani. No, tutto la buona è, c'è tutto come il pazzo, la cazzo l'aveva convenzionata, lento mi sembra. Non ho capito. Stava a trovare la conversata lì. Mi senti? Senti, io non la vedo. Non ho trovato la conversata. Allora, altri tempi, ma io ti parlo un mucchio di anno fa, capito? Per cui la macchina è tutta diversa, capito? Per cui... Diciamo che qualche dormita in macchina ce la facciamo. Vabbè, va bene, non tanto come il padre, che ci sono con la gabbia oggi, e c'è un'altra cosa, capito? Adesso siete signori, ma è giusto che sia così. E adesso sto andando a parcheggiare. Così che adesso parcheggi e sono buona casa, sei tranquillo, così va. Fino a lunedì sì, diciamo. Va bene, l'importante è che ci sia il lavoro e la salute. La salute è la cosa più importante, e poi il lavoro che rivede è la piano. Diciamo che lunedì sera partiamo in Corsica, rientriamo mercoledì. Sì, va vicino, va. Quando butto ci sono i corsi, ho fatto anche i corsi, l'ho fatto io, e sono le strade, non so se adesso mi hanno allargate, ma che facevo lo schifo, proprio stretto le strade. Strade di merda, non prende radio, non prende niente, lo sai che non funziona la radio là. Tipo un macchinare, vorrei caricare, e ci sono fatto per un volto, la vita. Per cui sono le strade come erano prima, e qualcuno l'avranno rinnovata, l'avranno allargata anche, così chiamano, si chiamerà più o meno la prima, la sette, non ha più di pesanti, e certo intorno a un rebus a camminare, capito? Per carità, e fate fare la boccia per andare agli acciumi, magari lì qualche cosa, lì si può fare camminare un po' meno, vai. Non ho capito che cos'è, se riesci a portare a casa? Ma ho detto che qualche strada buona c'è la Iaccio, ma tutti in Corsica. Sì, io faccio la Corsica. Ma la Iaccio non è che sei andato. Io faccio anche molto la Corsica. Non ho capito cosa ti ho detto io, ma la Iaccio non è che sei andato a quella città. Roppiano, Portovecchio, Aleria. Portovecchio diciamo che un po' di troie ancora si trovano. Sono dappertutto. Sei in corso da nessuna parte, sono a Portovecchio, ti dico la verità. È una buona mappa quella lì. Ma no, tu non sai i punti, ma là ci sono, vai. Anche in altre parte. Sono meno, ce ne sono di meno, però ci sono in tutto il mondo, ci sono. Così è. Tutti la partita sono arrivato stasera. E tu invece dove abiti? Dove sei? Sono di Sassari, ero di Palazzo Loggia. E anche dove? Anche io abito Palazzo Loggia. Anche tu abito Palazzo Loggia, sarebbe stato buio ancora perché dimmi una cosa invece, il bollettino per il mezzo per pagare la situazione della posta di 10 euro, com'è che funziona adesso? Se sono un po' io che non rinnovo la briga. Si paga 12 euro ogni anno, 12 euro, la tassa 12 euro. Sempre in passato l'indirizzo del PIL, capito? Ma non l'ha fatto quest'anno? No, non l'ho fatto, ma è vero che ci vuole questo passettino da quest'anno? Ma chi l'ha detto? La sapevo, ce ne vuole un patentino. Ma la Cibino ce ne vuole un patentino, capito? La concessione che nemmeno la concessione da sapere la tassa uomo che sei tranquillo, tu presenti il versamento, se vi riesco a parlare sei tranquillo veramente, capito? L'importante è che la presa è monogatto, tu c'hai la presa monogatto per cui sei tranquillo. Io cosa devo pagare? Devo pagare solo i 12 euro e basta. Allora, e poi 12 euro e basta un anno, capito? E poi, non ti pagano presenti il versamento, tu lo trovi sei tranquillo. Ma cosa devo fare? Vado alla posta e che cosa ne dico? Devo fare il versamento per il barattino. Esatto, di 12 euro, capito? 12 euro più un euro di tassa. Un euro e trenta di tassa. Sì, così poi la tassa è 12 euro, capito? E più la tassa che fa la pena, 1,30 euro, capito? Se c'hai qualche bollettino vecchio, c'è il numero di conto corrente lì, capito? E tu lo fai il tuo versamento, fai quel numero di conto corrente, tu sai che posso trovare la polizia di prendere, capito? Io da quando l'ho preso io questo cane, me l'ho preso in questa azienda, io non ho mai pagato nulla. Ecco, questo devo sapere, se il conto corrente vuole e come funziona. Vabbè, ma il banchino è tuo, no? Il banchino, perché oggi siamo alla NATO? Sì, che ti dicono puoi sapere cosa da fare, va bene, tutto lì. No, c'è un altro da sbagliare, quindi le poste ti dicono tutto quello che vuoi da fare, che vuoi fare. Poi la concessione la torre da casa, capito? E se tranquillo, devi tornare sempre a questo in macchina. Potrebbe essere una settimana, potrebbe essere anche 15 giorni, non lo so, io ripeto sono un vecchio CBA, che sono già 50 anni più, non lo so quanto ci può mettere adesso, ma penso che ci metta poco, capito? Sì, dove ci trovi adesso? Hola, passare, avanti. Attenzione, Pinuccetto, ci ascolti il doppio rondo a Porto Torres, cambio. Già ascolto, doppio rondo. Quasi quasi, arrattulando a Monteoro, dall'altro versante. Allora, voilà. E beh, com'è andata la visita a Pinuccetto? Adesso gli ultimi due abbiamo buttato giù. Per questa stagione, quest'anno abbiamo finito, via. Speriamo che l'altro anno ci lasci strani e che facciano il carbone buono. E tu, non voglio altro. Io credo, ma saluto la prima cosa più che c'è. Poi per la carne più buona del mondo già ce n'è troppa. Quella che si mangia cruda, già è buona quella, quella cruda già è buona. A me piace, un po' di profili male, le cose, le ostriche. Ehi, ma gusta, gustano, pitano. Su che il vento è facile, è l'uomo apprezzato, Dio l'aiuta. Stava rispondendo al telefono. Emme, buonasera circolari, ciao Gianni, ciao Lucariello e ciao a tutti i componenti. Beh, grazie a lei tu, ti chiamo la sera, non ci sei più, boh, verso le tre, non ci sei mai. Perché a quell'ora sto facendo l'amore, caro bello. Fai da monello, non te ne posso dare. Onde è sono reo, apidusa su papelle. Apide se si tocca sa fabbrica le gustavi stufa già. Ehi, pagata, quella è di quelle buone, 2600 euro l'ho pagata, ce l'ho già, quanti anni ce l'abbiamo? Bionda che canta de viuso. Pur usare locomotiva entrana. Gianni, e beh, cos'è il turno che hanno cambiato? Sì, adesso lavorano anche la sera, grazie. Vuol dire non ti sei comportato bene, stavi comendo troppo. Quando entra bisogna andare anche la sera. È meglio che ce ne sia sempre, tanto questo e poi quando vai in pensione già ne hai di tempo da perdere. Ci arriva anche quello già, approfittane adesso. E mi pare che ti sono vando io. Ci pare Marchetti a quando sarà già quando il Mattesi. Non si risolviene i contributi a base. Bisogna vedere se arrivo alla missione, fra 10 anni è troppo, 10 anni facendo quel lavoro pesante. Sono curato i burri miei, a bagna la fine pure, grazie a Dio, io mi sono arrivato un po' anticipato, magari. Solo che magari per l'età non mi mandavano, capito? Invece poi per via dell'invalidità mi hanno mandato. Però con tutte le parti. Ma Pinocchio, dove ci è arrivato? Mi sta andando all'Euro Garden se trovo una cassetta di finocchi per piantarmeli, che qua ne avete tanti di quei finocchi. Così è. Ma ci sono anche la notte lì. No, ma di quelli a me mi servono che si mettono sottoterra, no sopra il letto, no. Cappagazza, grazie. E allora c'ha ragione. Boh, non ho capito. Prendi tutto quello che si può piantare adesso e pianta, che c'è crisi. No, adesso ho tolto le patate e ci metto... Perché adesso quando ammazzare i maiali è pronto, mi ha visto. Ehi, a capa, no, io i maialetti me li ho fatti portare da Guspini, da un amico mio che abita a Guspini. Cioè, i maiali li vende, non a tutti, ma a più ristretti, là. Belli davvero, due me ne hanno portato. Anche a me viene ogni anno Valeria Marini a casa a dargli i maialetti, ma poi maiali ce ne abbiamo tanti, di quale tipo vuole? Maiale a due o maiale a quattro? Ehi, Valeria Marini è incontentabile, vero già? Ecco, quella è una maialona! Caragata, e dove sei arrivato già, che tieni più basso? Facendo, grazie, è la zona diciamo d'ombra. Eia Caragava, eia, Buttuso, dove sei arrivato? Come mai, perché quest'anno finito il carbone? La stagione sì, adesso finiscono le ferie e poi basta, adesso iniziamo a fare la legna. Vabbè dai, che sto entrando a questo agristoppo se trovo finocchi. Ehi, buon acquisto, mi non ti va così. No, ho smesso adesso di fregare, quindi non credo che sono ancora caldo caldo me. Graziano, riprendi, mi ascolti adesso, cambi. Capa che ti ha ascolto, chiasso e forte. Ehi, cosa si è fermato che è entrato a prendere i finocchi di notte? Perché è una maiala. Eia, vuol dire che le piacciono i porcetti. Maialoni. Eia, adesso no, magari al periodo invernale si rifà fare quell'orario, perché magari c'è meno calma. Magava, loro come si sveglia, infatti mi ho detto non durerà molto, perché ormai li conosco, quando ti fa bisogno ti chiama, ti dicono da oggi sei anche di sera, e tu devi andare anche di sera, se ti dicono se sono di mattina, devi andare solo di mattina, è interessante che questi impegni si lascia per quello. Beh, certo che sì, a tutti i giorni, ma intanto molte volte la sera non sapevi cosa fare, ti annoiavi, te ne andavi in giro a piuttosto, e allora già va bene anche così diviso là l'orario, ma a pranzo tu sali lo stesso o pranzi lì? Oh, salgo sempre a pranzo, faccio quattro volte, scendo e salgo. Ma così ci metti un sacco di benzina, non ti conviene, mangi lì e te ne vengo in giro di schifo e te ne vai al mare. Al mare? Io dopo bello mi faccio una bella pennichella, mi riposo per la sera a casa. No, grazie, non è così, no. Il mio lavoro stanca, capito? Ho bisogno di riposarmi dopo pranzo. Vabbè, io rimanevo lì perché intanto l'orario di pranzo era un'ora. Vabbè, ma in 10 minuti io mangiavo, poi me ne andavo lì al centro commerciale. alle 2:05 rientravo, va, alle 2 entravo a lavoro, era due passi. Ma le mie sono 4 ore, dall'1 alle 5, cavolo, cosa ci faccio buttate la voce, un randaggio. Sì, quello già è vero, ma, certo che sì. Camburato così pure andava magari gli animali così si scassa pure già e poi vabbè allora così già ce l'hai l'orario per poter salire e riscendere, ma io quando lavoravo lì a Plaza Mora c'avevo un'ora e non è così anda, beh per un'ora anche io lo farei, ma quando sono 4-5 ore cosa fai? Buttato così al caldo caso mi fai, ma no, io dopo pranzo mi faccio la pennichella, mi rinfresco, mi faccio la doccia, se andiamo a mare in Chivi, in Demiravo da buio, no, no, non mi piace a me la sporcizia, io devo, quando torno a casa mi faccio la doccia, prima di riuscire me ne faccio un'altra, e sono bello fresco. E beh, certo che sì. Quando lo dissi, no, ma per lavoravo io c'è la sala mensa, i bagni, le docce, c'è tutto. Solo che un'ora cosa faccio? Mangiavo 10 minuti e mi andavo al centro commerciale, più di mezz'oretta mi rilassavo lì e poi andavo al lavoro. E lo vedi a Plaza Mora, dove lavoravi? Dove c'è il maneggio dei cavalli, di signor Mario. Ah, cosa facevi, cavaliere? Però lì c'è la falegnameria, gli ultimi 18 anni e mezzo c'era la falegnameria, lavoravo io con un ragazzo. Perché poi mano a mano gli altri quando sono andato, si è andato in pensione, grazie alla struttura. Poi gli ultimi 4 anni e mezzo sono rimasto io e questo ragazzo che ci avevo insieme a me. E eravamo in due, due cappalloni, ci sono due cappalloni, non li hai mai visti. Non ci ho mai fatto caso, grazie. Sì, sono andato lì perché c'è la campagna del padrino, c'aveva la campagna del padrino di mia moglie, poi adesso l'ha venduta. Che aveva la casa a livello del terreno, era sottoterra che lo si poteva costruire in Chivi. Avanti lui. Beh, già, mi è capace, vado in macchina. Che ora è? Sono, vabbè, in teoria hanno detto che doveva arrivare alle 5, ma quello non arriva alle 5. Quello sicuramente fa la serata, poi sono arrivati all'aeroporto di Alghero, verso mezzanotte riparte di nuovo per andarsene a casa. Arriverà adesso alla luna di notte a casa di due. Ma io mi devo fare prima la doccia, mangiare, se lo vedo lo vedo, se no pazienza. Un salto già me lo faccio per prendermi un po' di aria e basta. Alle 5 non penso che la gente vada alle 5, la gente va quando non c'è caldo. No, io non ho fatto la doccia, devo solo mangiare, capito? Passo il resto. Ciao, grazie. Ciao Luca, già sei veloce, è bene, inizierà penso più tardi, non penso che cominci all'ultimo, inizierà alle 9, ti pare che quasi questi 16 di praticamente finendo, se pigliano di dinare dentro è una pacchi, vero già? E grazie a tu che sei anziano, Don Bacchi cosa cantava? Allora, Don Bacchi cantava, Don Bacchi non me la metto brutti, ce ne ho mi di quei nastri Don Bacchi, conservati su nel suo parco dentro una sacca, c'ho tanti nastri. E che cazzo le canzoni? Immensità già. Non me la ricordo. Ogni tanto già me la accendo con la borsa e me la ascolto un po', però da voi mi tratta nel cilindro rato di nato un suo falso. Oh già. Sì. Allora, canta, canzone, l'immensità, sognando, poesia, cronaca, l'amore, frasi d'amore, casa bianca, canta tante, vabbè. sarebbe stato il pienone, ma il pienone veramente. Un celentano, anche se è grande, lui ormai è proprio passato, sì, ce ne sarà gente comunque, perché anche lui è stato una star, ecco, della musica italiana, ma comunque sia, sai, no, se ci sarebbe stato un celentano o un Gianni Morandi, allora sì. Sì, andiamo al ricordo di Mesita, nell'immensità. Lo so, tutta la vita sempre solo non starò, e un giorno troverò un po' d'amore anche per me che sono vita nell'immensità. Proprio quella, sì, bravo, sì. Ed io ma come lamentava, adesso me l'hai ricordata. Ma però Don Bacchi non era il bello là. Luca di Celentano e Gianni Morandi, Don Bacchi e prima di Gianni Morandi, ma forse con Celentano sì, come età, ma di Gianni Morandi no, c'era quella già grande quando Gianni Morandi è uscito. Producendo sia Gianni Morandi che Don Bacchi che Celentano, invece lui le afferma le canzoni di Danno Tre, capito? Però già sono belle, già a me già vi piace. Già ce ne sono canzoni belle. L'altro giorno mi ho messo un altro qui avanti un momento Gaila, ma un altro, un altro. Già sono belle, però come l'ascolti, la sai già, capito? Già me l'ho ascoltato, però sono sempre canzoni vecchie, già sono belle canzoni, così non ne faranno mai, quello è poco ma sicuro. Chi si dice pittori bisogni fanno schifo, non sa ma cosa sono cantelli, ma... Ma io sono quasi arrivato, Luca. Oh, senti per vedere là dopo. Non lo so se no, che Marco è restio ai concerti, rompe le palle sempre, non ci fa vedere mai nulla. Se mia moglie viene, se no vengo io lo stesso, là. Ma io sono lì all'entrata, capito? Ciao, mi trucco, io mi fanno uno squillo. Già ci troviamo, dai. Ma io vado dopo, però sono maggio, con calma. Città, si vuole città, no, se no si può pure andare a me. E idem la stessa cosa, io mi lavo, mangio, mi ciambo, se no non sono io. Basso, Luca, come lo senti tu? E adesso? Io vi saluto che sono arrivato. Saluto anche l'amico, lo ascolto bassissimo, non so dove sia. Ciao, Pinocchetto del Moro, ti saluta. Ciao, Pinocchetto, e dove sei che sei messo sotto casa? Sono nella 131, Bivio Itteri, Usine. Allora, sta arrivando benissimo qua, non so come mi ascolti tu perché sono in baramobile. Andare, Pinocchè, buon rientro, buon tutto e buona domenica. Ciao! Ciao, buona finocchiata. Mi sono preso 90 finocchi. Adesso vediamo, li metto sotto terra, a vedere se fanno qualche mascio, qualche femmina. Bene, se è passata, se è secondo. Buono che non c'è. Segnale 9 più 20 più 6, c'è un bel altro, anche qua. De battata, non c'è, de battata. De battata, de... Sì, no, di... Di patata sì, Pinocchio, no, di... Ma, facciamo il colpo adesso. La metà di Pinocchio. Di Pinocchio, mannaggia. Giovanni, tu a chi sei? Giovanni, no. Giovannino. No, ma non c'è Giovannino, c'è la Giovannino in linea, allora chiuso, Luigi. Chi è Giovannino, scusa? Giovannino Luigi, della Sinonte. Oh, Giovanni, Giovanni... Petribani. Giovanni? Petribani. Ho detto Giovanni Petribani. No, Petribani, ma non è Piero, sei il senso. Come? Fratello di Piero, sei il senso, Piero Petribani. Sì, no, Giovanni, Piero, Giovanni, non abbiamo una battaglia al comune. Sì, è il fratello di Piero, sei il senso. Ci da Piero. Giovanni Ugiano, si chiama, non Piero. Ehi, Giovanni Petribani. Si chiama Burubiero, si chiama. Fratello si chiama Piero, Petro di Bani. Questo si chiama lui Piero. Questo malissimo. Sto scendo molto basso. Sto molto basso. Voglio un microfono a 5. Grazie a basso sto uscendo. No, chiasse forti. Cosa un po' basso però, dove sì? Io sono i punti. La pulisco. sei ossidata, ti fa quanta, cambio il filo, metto il filo nuovo, l'antenna mi va di altri 20 anni. E ti serve un'antenna, Luca Flipper, la sta vendendo una, una di quelle che ha costruito lui. Lui le fa e poi le vende. Poi di là. Questa mia, c'è tu di legge in generale. Addosso. No, voglio fumare una sigaretta fuori dalla veranda, sennò mi muoio. dire che mi rapporti magna. No, mangi una sigaretta. Mi non si mangia le sigarette, mi cucchia le 4:30, mi un pacchetto. Sì, ma in casa non fumo, fuori sì. Poi mi sa che Gracias. bollettino, una parte di bollettino, e l'altra te la tieni tu a fotocopia, la tieni appresso. Ogni qua quando tu paghi il, diciamo, la tassa te la devi portare appresso, se ti bloccano sei tranquillo, se no sono 2000 euro di multa. No Luca, adesso io vado a voi scritto per la concessione per ascolto di radio UHF, io sono andato lì e mi ha detto non c'è bisogno, basta che tu confini per rinnovare la, il permesso. Allora si faceva la concessione, io ce l'ho, c'ho anche il permesso della questura, però quello mi ha detto che non c'è più bisogno. A Cagliari, una volta tu lo spedisci, allora gli arriva la conferma, ma comunque sia gli arriva, perché gli arriva, però prima di spedire ti fa la fotocopia, con il versamento pagato, poi se ti bloccano, tu sei un signore, sei a posto. Ho capito, ho capito, quindi devo fare il versamento a 12.40 e inviare a Cagliari tutti il bollettino più la marca e il modello del baracchino. Dove andare alle poste, farti dare il modulo. Capito, devo andare alle poste, farmi dare il modulo, compilare tutto e poi inviarlo a Cagliari come la copia del bollettino. Le poste centrali, yes. Facciamo qua, ti fa dare il numero e chiave e chiedi informazioni. A voi, Michel Armano, il numero proprio della responsabile di procedimento. Dottoressa Salvatorita Giacu, te l'ho detto? Avanti. Allora, via Brenta numero 16, il codice postale 09122 Cagliari. Poi, responsabile di procedimento, dottoressa Salvatorita Giacu, telefono 070 20 28 62 21. Allora, telefono 070 20 28 62 21. 070 20 28 62 21, questo è uno. Poi ce ne altri, perché numeri di telefono? Sì, sempre Salvatorita Giacu, vice provincia, responsabile dell'istruttoria. Signora Emilia Secchi, telefono 070 20 28 62 27. 070 20 28 62 27. 070 20 28 62 27. Ok, quindi telefono loro e li invio tutta la documentazione del baracchino con la copia del bollettino pagato di 14 euro, giusto? Ciao, io adesso sto solo leggendo dall'ultimo documento che mi ho fatto io, oggetto attestato dell'attività di secondo di ascolto sulle frequenze delle bande radioamatoriali SWL, in riferimento alla richiesta avanzata dalle SV si rilascia l'attestazione indicata in oggetto, distinti saluti Cagliari. Questa è la domanda che ho fatto per fare il radioascolto di radio amatoriale, perché se c'è una radio grande non c'è, questo non lo puoi adoperare, cioè non puoi ascoltare, capito? Puoi parlare solo con la 27, tipo questa radio che ho io, puoi andare su quelle bande lì, però puoi fare solo ascolto. Ma se a me mi trovano col baracchino piazzato e non ho pagato la tassa, che cosa succede? Però non lo sto utilizzando. Cosa ti sto dicendo io? Tu lunedì pagati il versamento, gli fai vedere il versamento, mica ti domandano la ricetta, ti chiedono solo il versamento e poi la concessione ce l'hai, tu li fai, me lo dimenticato a casa in mezzo agli altri documenti che ho levato dalla macchina. Comunque questo è il versamento. Il versamento, l'indirizzo, lo vuoi far farlo? Il bollettino e te lo dico, te lo scrivi così, lo dicessi così, e tanto tu rubavi, si fa caso di Bemanica, è quello, capito? Aspetta un attimo che prendo una penna. Eia! Avanti! Allora, pronto sei? due minuti e vai. Qua c'è il numero del conto corrente che devi scrivere nel bollettino bianco, lo prendi alle poste. 21 96 50 90. Aspetti. 21 50 21 96 50 90. Qual è il numero del conto corrente del bollettino che devi scrivere su in alto? Su in alto, nella prima riga. Dove c'è scritto conto corrente. Sotto c'è importo in lettere 12 euro. Scritto. Avanti. Allora, adesso scrivi l'intestazione, no? Intestato a Tesoreria dello Stato, via Simetio, numero 18, Cagliari. Tesoreria dello Stato, via Cimetto, numero 18, Cagliari. Non ho capito la via, via? Cimetto. Bello feeling, sì. Ah, Cimetto, beh, tutto, nel bollettino. Numero 21 Cagliari. Numero 18 Cagliari. 18 Cagliari. Ehi, dove c'è scritto casuale nel bollettino? Devi scrivere autorizzazione per Radio Rice Trasmittente Baracchino e il numero della serie del baracchino devi scrivere, che c'è scritto dietro il baracchino o sotto il baracchino in quella targhetta. Devi guardare quella targhetta. Però devo scrivere autorizzazione. Autorizzazione per Radio Rice Trasmittente Baracchino. Rice Trasmittente CB, non Baracchino, CB. Io sto leggendo il bollettino che ho fatto quest'anno, sì. E poi c'è scritto il numero degli apparati che adopero, capito? Ma essere più, diciamo, sai, no? Più pulito, CB, no? CC Baracchino. Oppure, io avevo scritto, aspetta. Io ho scritto nel coso, vabbè, quello è il canone, e comunque CB si scrive, no Baracchino, ma ognuno si trova come vuole. Vabbè, ma intanto non mi hanno messo niente, perché la volta che sono andato a il amico il foglio gli ho fatto vedere perché me l'avevano chiesto, che mi ha detto tutto a posto. Hai scritto? Sì, ho scritto, noi del trasmettente CB. Anche così va bene, radio trasmittente CB. Ecco. Però nel bollettino ci devi mettere il numero di serie del baracchino omologato, quello omologato. Ok, adesso lo scrivo. Baracchino è il numero di serie. Eia, il numero di serie dietro nel baracchino o sotto ci dovrebbe essere una targhetta, un alluminio o di quella carta argentata. Che lì c'è scritta la matricola praticamente del baracchino, che poi basta che sia omologato l'ultima puttinita. Tanto a me non me ne hai mai controllato. Negando quasi a camionista e negando la giumale per me in macchina. Mi hanno sempre chiesto il versamento, anche se in macchina mi porto sempre appresso la fotocopia della concessione, ma la porto sempre, perché prima te la chiedevano, ma adesso non ne chiedono più, ti chiedono praticamente il versamento. Scritto? Scritto con è sempre uguale. E per lo confine, il nome tuo, piazza o via 0700 o Sassari, e ci metti alla data 2014. Ascolti un secondo. Eia. Io ho scritto conto 21 96 50 90, il 12 euro, tesoria dello Stato di via Dimesso 18 Cagliari, autorizzazione per radio vice trasmittente CP Baracchino Lafayette, e devo mettere il numero di autorizzazione Baracchino, giusto? Eia, è uguale, va bene così, la matricola del Baracchino praticamente, capito? Ho due voci qua, c'ho due codici, uno è l'omologazione protocollo numero e l'altro è basta. No, è il numero dell'omologazione del baracchino, basta quello. Io ne ho tre qua scritti, perché la concessione tanti anni fa l'ho fatta, adoperavo questa radio, ma adesso questa radio ce li ho, però non le adopero, ce le ho conservate e sono là adoperando. Capito? Oh, non li ho buttati, ma che io sono sempre funzionanti, ogni tanto li faccio funzionare, però più vecchi migliori, no, capito? E basta che tu adesso, quando stai ad aspettare la risposta per la concessione di CB, fatti il versamento ai 12 euro, in caso ti fermano, tu gli dai, ti fa vedere il versamento, che intanto non te ne chiedono neanche di concessione. Una volta che ti arriva la concessione, ti fa la fotocopia e ti la buona in macchina dentro la busta insieme al bollettino del versamento, anno per anno, perché ci fa ogni anno, a gennaio tu devi rifare, sempre giù di cielo. A meno che non facciano aumenti, ma non può essere, sempre così. Ok. Tu lunedì ti prendi un bollettino alle poste, te ne prendi uno di quelli a quattro scompartimenti, così te ne rimangono due a te, così uno di rullare in macchina e uno di rullare in casa, come faccio io. Poi quando ti arriva il quello della concessione, il permesso o la risposta che ti danno loro e tutto, ti fai sempre la fotocopia e te la metti insieme al bollettino in una busta in macchina e ce lo scrivi, no? Così sai cos'è, lo sai apri nella busta, ti scrivi autorizzazione e scrivi, e te la tieni in macchina, è un camion, è una casa tua, se te lo piace in casa. Tutto, sono qua e adesso nel città è pieno di vicini urbani qui. Ehi, ciao, alla prossima. Luca, io sto chiudendo. Ti devo anche altre informazioni. Ti devo battate, ciao a tutti, a domani. Ciao. Ehi, ok, ciao a tutti e due, ce la risentiamo domani, se Dio vuole, alle prossime, domani non lo so.